Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, eccomi di nuovo in diretta, benvenuti a Salva Danaio. Una bella e buona sforbiciata alla burocrazia edilizia. Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché ti saluto subito? Perché questa è la definizione che tu hai dato sulle pagine del Sole 24 Ore di lunedì scorso al provvedimento entrato in vigore nell'ambito del recente decreto sviluppo, il decreto 70 dello scorso maggio, un provvedimento, come sapete bene, finalizzato al rilancio dell'economia, che contiene diverse misure di semplificazione dell'attività edilizia, fra le quali alcune riguardano iniziative di riqualificazione urbana, la segnalazione certificata di inizio attività SCIA. Sì, abbiamo un tecnico in studio perché abbiamo scoperto che c'è un microfono che ci fa qualche pernacchia in diretta. Adesso sistemiamo tutto. Comunque, in che termini funzionerà, per esempio, il principio del silenzio assenso per costruire? Quali sono queste nuove regole più snelle? Vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi che questo è stato il tema della guida pratica delle Sole di lunedì scorso, guida pratica che per la verità raddoppia, perché da questa settimana ce ne sono due in edicola, quella del lunedì Cristiano e quella del venerdì, se non sbaglio. Infatti domani esce quella sulle pensioni. Esatto. Esce così. Quella sulle pensioni, e noi naturalmente replicheremo e doppieremo l'appuntamento anche a Salva Danaio. Dunque, lunedì la semplificazione edilizia, domani le pensioni. Come funziona questa riforma del permesso per costruire, che funziona in modo diverso, se non ho capito male, a seconda della dimensione della città interessata? E poi come funziona anche questa nuova versione del piano casa? Tutto questo stamattina lo affronteremo sia con Cristiano Dell'Oste, che vi ho già presentato, ma anche con l'avvocato Guglielmo Saporito, esperto di tematiche fiscali ed amministrative per il Sole 24 Ore. Avvocato Giannini, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ci sente bene? Tutto a posto? Tutto bene. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette di farci tutte le domande su questo argomento che riterrete opportuno, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Peraltro, Cristiano, la guida uscita lunedì scorso ha avuto la stessa modalità di funzionamento di quelle precedenti, quindi un pool di esperti messi a disposizione dal Sole, possibilità di inviare dei quesiti al sito del Sole 24 Ore. Che domande vi hanno fatto i nostri utenti, i nostri lettori? Guarda, uno dei temi che si conferma più popolari è quello del piano casa. Assolutamente, la prima versione, quella con le leggi che sono ancora attualmente in vigore, non ha dato i risultati attesi, è stato, anzi diciamolo pure, un flop, e quindi c'è grande interesse per cercare di capire se questa nuova iniziativa avviata dal governo con una legge che dopo 120 giorni dovrebbe entrare in vigore in tutte le regioni, se i diversi enti locali, se le diverse regioni non dettano una propria normativa, ecco, questo meccanismo suscita grandi aspettative da parte dei cittadini che magari nella prima tornata di leggi non hanno trovato la possibilità di intervenire sul proprio immobile. Ecco, a prescindere, diciamo, dalla cornice normativa generale dettata dal governo, appunto questa è una, il piano casa sostanzialmente era fattibile solo sulla base della, come dire, coincidenza di intenti da parte degli enti locali, quindi tutta una serie di incroci legislativi piuttosto complicati che appunto hanno determinato poi il flop. Quindi anche in questo ambito poi come si crea questa semplificazione della quale abbiamo parlato. Adesso lo scopriremo. Rapidamente un'occhiata alla borsa, che oggi è piuttosto positiva in tutta Europa. Oggi abbiamo anche molti dati economici che arrivano dagli Stati Uniti, abbiamo un debutto a Wall Street molto importante, che è quello di LinkedIn, che è questo social network professionale molto frequentato da professionisti anche di alto livello, un social network proprio orientato al mondo degli affari. $45 per azione il prezzo di collocamento, e vedremo se avrà successo o meno. È una delle maggiori, appunto, della storia di Wall Street, anche più grande, se non ho capito male dai dati che ho letto, di quella di Google nel 2004. Allora, andiamo a vedere a Piazza Affari, più 0,7%, i migliori titoli Azimut, più 2,66%, Mediobanca, più 1,77%, Monte dei Paschi, più 1,73%, Fiat, più 1,67%, mentre tra i ribassi segnaliamo quello di Tenais, che perde un punto, Fiat Industrial, meno 0,7%, Prismi, almeno 0,6%. Andiamo però subito al tema di oggi. Scopriamo quali sono i recenti provvedimenti del governo nell'ambito della semplificazione edilizia. Permesso di costruire con il silenzio assenso, rilancio del piano casa per gli ampliamenti, piani regolatori pubblicati sui siti dei comuni. E ancora, la conferma definitiva della possibilità di applicare la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, al posto della DIA in edilizia. Anche quest'anno sono numerose le novità che riguardano la casa e la semplificazione edilizia introdotte con il decreto sviluppo. Innanzitutto è stato introdotto il meccanismo del silenzio assenso, anche al permesso per costruire. Si può dunque iniziare con i lavori 90 giorni dopo la presentazione della domanda nei centri urbani con meno di 100.000 abitanti, che salgono a 150 giorni in caso di comuni oltre 100.000 abitanti. Via libera alla SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, che consente di iniziare subito i lavori al posto della DIA, che invece richiede 30 giorni di attesa. Infine, il decreto sviluppo ha rilanciato un nuovo piano casa che consente di ampliare del 20% le volumetrie non solo per le abitazioni, ma anche per gli edifici non residenziali. Il piano però rimarrà fermo per 120 giorni e in ogni caso fino a quando le regioni non adotteranno le proprie leggi ad hoc. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi in diretta. Stavamo sorridendo con Cristiano Dell'Oste perché ormai abbiamo capito che Cristiano è assolutamente identificato con tutto il mondo casa quando affrontiamo questo argomento a Salvadanaio, ma soprattutto con il tema incentivi fiscali per i lavori di manutenzione straordinaria, 36%, 55%. Infatti stanno arrivando domande su questo argomento che, avrete capito dalla scheda, non sono esattamente in linea con il tema che invece abbiamo scelto di approfondire oggi a Salvadanaio, però poi magari possiamo anche accontentare i due ascoltatori che ci fanno due domande proprio sulle detrazioni. Detto questo, invece, altri ci scrivono, Cristiano, chiedendoci se la guida è ancora disponibile da parte del Sole 24 Ore. Credo di sì. Sì, la guida è ancora disponibile, può essere acquistata ovviamente online perché in edicola è andata lunedì scorso, ma è ancora acquistabile sul sito. Possiamo anche dare l'indirizzo, che è www.ilsole24ore.com/casa-alto, quindi quello con il meno, casa-alto costruzioni. A questo indirizzo si trova la guida, può essere acquistato, diciamo c'è un dossier online che contiene sia il file in PDF del cartaceo uscito in edicola lunedì, sia una serie di contenuti extra che riguardano ad esempio tutti i testi delle leggi regionali sul piano casa attualmente in vigore, la modulistica comunale, una serie di giurisprudenza ragionata sul principio del silenzio assenso, che consente quindi di capire che cosa i giudici avevano detto sul silenzio assenso prima che questo istituto venisse esteso anche al permesso di costruire, e quindi ci consente magari già di cominciare a capire come potrà funzionare sotto alcuni aspetti anche questo nuovo nell'ambito principio. Di tutte le nuove semplificazioni delle quali parleremo questa mattina, quest'ultima che hai citato forse è la più corposa dell'ultimo provvedimento, ma diciamo che è quella che incide in misura probabilmente più sostanziale su un titolo edilizio quale quello appunto del permesso di costruire, che è quello che viene usato per i lavori più importanti, diciamo così, per capirci. Quindi le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche, che sono quegli interventi, quei grandi cantieri che di fatto stravolgono un po' il volto di un intero quartiere, di un'intera zona della città, magari cambiando anche la viabilità, l'illuminazione e così via, e a certe condizioni anche per le ristrutturazioni edilizie che comportino magari una demolizione, una ricostruzione di un edificio in modo diverso da quello che c'era in precedenza. Ecco, in questi casi si usa tuttora il permesso di costruire, che nella sua versione precedente prevedeva che l'amministrazione dovesse dire sì o no in modo espresso, e ovviamente se il no non arrivava nei tempi previsti, il cittadino rimaneva, per così dire, appeso senza sapere come regolarsi perché non aveva avuto il via libera, non aveva avuto un diniego. Ecco, adesso viene introdotto il principio che se la pubblica amministrazione non ti dice di no entro un certo termine, tu puoi comunque procedere con i lavori. Qual è questo termine? Allora, il termine è molto variabile, nel senso che nella migliore delle ipotesi, nelle città al di sotto dei 100.000 abitanti, se il progetto non viene dichiarato complesso, se non servono integrazioni documentali e se non ci sono se diciamo il responsabile del procedimento non ritiene di dover chiedere delle modifiche, ce la possiamo cavare in 90 giorni. Però avete visto che ho detto una serie di se. Non è difficile immaginare che nei centri più grandi o per i progetti più complessi si vada oltre i 200 giorni, e quindi si vada di fatto a essere nell'arco dei 7-8 mesi, che non è pochissimo. Questa è una delle cose che le associazioni dei costruttori un bel concetto di semplificazione questa hanno rilevato. Che certo. Cosa succedeva prima? Prima succedeva che dopo un termine così lungo non si aveva neanche la possibilità di avviare i lavori perché non c'era il rifiuto e non c'era l'assenso e quindi si rimaneva bloccati. Peraltro qualcuno ha anche rilevato che sarebbe comunque preferibile avere un provvedimento espresso quando si va a relazionarsi con le banche che magari devono finanziare il progetto o con un investitore e che si trovano di fronte, diciamo, a un bel incartamento con tutti i progetti e dicono: beh, questo mi piace molto, è molto interessante, però siamo sicuri che vada tutto bene. E a quel punto il promotore del progetto potrà dire soltanto: guarda, non mi hanno detto di no, quindi sicuramente posso procedere. E infatti un tema molto interessante è quello che affronta l'avvocato Saporito sul Sole 24 Ore, cioè che cosa succede se invece l'amministrazione interessata interviene dopo che si è già concluso questo termine, questo iter che teoricamente dovrebbe avere escluso ogni tipo appunto di negazione da parte dell'ente locale interessato. Questo è il tema dal quale partiremo nella seconda parte di Salvadanaio, proprio con l'avvocato Saporito, a cui chiedo ancora qualche minutino di pazienza. 800 24 00 24 numero verde per le vostre domande, oppure scriveteci alle 349 238 6666. Ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Oggi recuperiamo la guida alla casa che non abbiamo potuto fare lunedì scorso perché, se ricordate, eravamo al Salone del Libro di Torino, ma siccome sono stati introdotti proprio di recente con il decreto sviluppo numerosi provvedimenti che riguardano la casa e soprattutto la semplificazione edilizia, oggi ci è sembrato utile rifare questo argomento, riproporre questo argomento, ricordando appunto che collegandovi sul sito del Sole 24 Ore trovate anche la modalità per recuperare questa guida se l'avete persa in edicola lunedì scorso. C'è anche un'altra cosa da ricordare: le guide del Sole 24 Ore raddoppiano il loro appuntamento settimanale, domani abbiamo le pensioni e ve lo riproporremo anche con Salvadanaio. Un'ultima informazione di servizio prima di andare all'avvocato Saporito: apriamo anche un angolo della poesia a Salvadanaio, lo so che vi sembrerà piuttosto inedito, ma sempre a proposito di iniziative delle Sole 24 Ore volevo ricordarvi che il Sole sta realizzando una nuova iniziativa che offre il piacere della grande letteratura in versione short da domenica prossima, 22 maggio, e solo di domenica, è in edicola con il quotidiano la pubblicazione I racconti d'autore, 20 opere dei grandi maestri che si sono cimentati nell'affascinante prova del racconto, 50 centesimi di euro per acquistare domenica, per esempio, il libro Sotto il crinale e altri racconti di Ernest Hemingway. E quindi, insomma, anche questo è un appuntamento da non perdere. Allora, ancora un'altra breve premessa con Cristiano Dell'Oste prima di andare all'avvocato Saporito. Ci fai una definizione, Cristiano, di Dia, Scia, Super Dia e Permesso a Costruire, perché questi sono i quattro grandi titoli edilizi, chiamiamoli così, appunto, che sono oggetto proprio di tutta la tematica che parliamo questa mattina della nuova semplificazione introdotta dal governo. Guarda, Deborah, farò di più, nel senso che ti posso dire, così diamo anche una sorta di idea chiara della scala dei livelli di permessi dell'attività edilizia che oggi si è delineata dalle regole. C'è un'attività libera, ad esempio la tinteggiatura delle pareti o il cambio dei pavimenti, per la quale non va fatto nessun permesso. Poi, e questa comprende ad esempio tutta la manutenzione ordinaria. Poi, per un'altra serie di attività, abbiamo la comunicazione al comune, che può essere semplice, quindi in carta libera, questa la può fare il cittadino da solo. Poi abbiamo la comunicazione asseverata, che quindi richiede l'intervento di un tecnico che fa il progetto e lo assevera. E poi a salire abbiamo la DIA, che è la denuncia di inizio attività, che anche questa richiede la progettazione da parte di un tecnico e ti consente di avviare i lavori dopo 30 giorni. Però la DIA adesso è stata sostituita dalla SCIA, segnalazione certificata di inizio attività. È praticamente identica, diciamo così, semplificando, ma ti consente di avviare il cantiere il giorno stesso in cui la presenti. La DIA però sopravvive ancora in tutti quei casi in cui è alternativa al permesso di costruire e quindi prende il nome di Super DIA, perché bisogna anche allegare una serie di documenti ulteriori. Insomma, un grado di complessità un po' più alto. E poi abbiamo l'ultimo scalino, che è quello del permesso di costruire, che quindi viene usato per i lavori più importanti e che, alla luce di quello che ha stabilito il decreto sviluppo, adesso funziona con il silenzio assenso. Ecco, una cosa importante che possiamo dire: funziona con il silenzio assenso solo dove il bene non è vincolato, perché se abbiamo vincoli paesaggistici, ambientali o culturali, allora lì vale il principio del silenzio rifiuto. Quindi, se non mi rispondono entro un certo termine, la risposta è no. Cosa succede però se il comune si intrufola dopo che è scaduto il termine, ancora il titolo per farlo, appunto, e qua chiaramente interviene la giustizia amministrativa. Avvocato Saporito, finalmente riesco a sentirla, però insomma lei è un po' anche lo specializzato anche per la guida del Sole 24 Ore che è uscita lunedì proprio in queste problematiche, no? Io leggo l'attacco del pezzo che le è stato assegnato per la guida di lunedì scorso. Le norme del decreto sviluppo introducono il silenzio assenso per il rilascio del permesso a costruire e dimezzano da 60 a 30 giorni il termine dei controlli sulla scia, in seguito alla presentazione della quale comunque è possibile avviare subito il cantiere. Ma cosa succede, avvocato Saporito, se l'amministrazione interviene dopo che è già concluso il termine per provvedere? Ma guarda, c'è un inseguimento tra il cittadino che vuole costruire e l'amministrazione. E già me lo immagino, questa fuga insomma in paese tra sindaco e cittadino. No, adesso prima, a parte l'immagine. Prima era il cittadino che inseguiva l'amministrazione, adesso capita che è l'amministrazione che insegue il cittadino. Prima il cittadino doveva aspettare e poi sperare che sopravvenisse un provvedimento più o meno tacito come nella DIA oppure espresso come per il permesso di costruire. Adesso con la scia può iniziare subito o con il silenzio assenso può iniziare appena si è formato appunto il silenzio, e cioè diciamo al minimo dopo 90 giorni, e restano però delle fasce di rischio entro le quali l'amministrazione può con specifica motivazione intervenire comunque, anche se il tempo tecnico per provvedere è già passato. Quindi insomma un titolo per bloccare eventualmente i lavori il comune ce l'ha sempre, insomma questa eventualità non possiamo proprio ritenerla sempre scongiurata, anche se è appunto passato il termine del silenzio assenso, avvocato. Questa possibilità di intervento da parte del comune ha due parametri: un parametro di interesse generale che deve essere presente e un parametro quindi di serietà e di proporzionalità. Se manca per esempio solamente un adempimento di tipo formale o se c'è una difficile lettura di atti che sono già stati formati e forniti all'amministrazione, il comune non può sospendere per questo solo motivo. In ogni caso una sospensione ha una durata standard di 45 giorni, oltre i quali occorre dire chiaramente che cos'è che non va. La sanzione vede in posizione paritaria privato e amministrazione, e cioè ciò che unifica sono i danni. Se l'amministrazione non è seria nell'intervenire, cioè non è tempestiva e non è adeguatamente motivata, può pagare i danni, può essere condannata a pagare i danni, danni di cantiere, danni anche di difficile collocazione del prodotto edilizio, ritardi, interessi sui mutui, danni che causa per una difficile lettura dei suoi stessi provvedimenti. Allora, qui abbiamo affrontato il caso di un eventuale contrasto e conflitto fra cittadino e amministrazione locale, ma ci possono essere anche delle circostanze in cui maturi un conflitto fra vicini di casa, tra un cittadino e un altro cittadino che si mette magari di traverso in un determinato tipo di lavoro. Poi magari, avvocato Saporito, affrontiamo anche questa casistica. Adesso direi di sentire le domande degli ascoltatori, cominciando con Anna da Milano che si è prenotata da un po'. Anna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, io ho comprato una villetta schiera, una di testa, in un condominio di 3 blocchi. Io sono nel primo blocco, gli altri sono dietro e sono più in alto. Volevo fare un'apertura sul giardino, che è su 3 lati, ma sul lato centrale dove c'è tanto spazio, e fare una veranda, come se un porticato. Mm-hmm. Ero andata al comune e mi aveva detto di sì, e bastava che il blocco nel quale io ho questa casetta di testa fossero d'accordo la maggioranza dei condomini. Ha già sondato il terreno? No, io ho le firme 7 su 9, me compresa. Mm-hmm. Però resta il fatto che gli altri due blocchi c'è il dubbio che anche loro debbano dare il benestare. E so che non lo darebbero mai, e poi mai, perché per altre cavolate diciamo ci sono i signor no. Sì, vabbè, quelle sa com'è, sono vicende che si verificano in ogni condominio. Tra l'altro posso già anticipare che la guida di lunedì prossimo è proprio sul condominio Cristiano, mi ricordo male. Abbiamo... No, ti ricordi bene, possiamo già dirlo. Lì sì. Ci divertiamo senz'altro. Anna, tra l'altro questa villetta di testa in questo complesso condominiale l'ha comprata in che città? Perché forse anche questo... L'ho comprata a Premolo. Appunto, il comune di Premolo ha preso i disegni. Dove sta sono Premolo? Andato, strade confinanti, abitazione confinante, cioè muore con me quella parte lì. E allora ho detto sì signora, può farlo un porticato, io non voglio cementazione, a me basta legno tipo bungalow, non so, legno e vetro. Allora insomma volevo andare avanti, ma Premolo mi sembra il nome di uno dei nani di Biancaneve, mi fa, in che provincia è Anna? Mi scusi ma non conosco questa località. Dei nani, aspetti, Brontolo, altre cose, no non è i brontoli ce li ha gli altri colleghi del condominio. Anna la ringrazio, Cristiano vuoi già come dire affrontare qualche aspetto? Vado subito all'avvocato. Ma direi solo una cosa prima di sentire l'avvocato, che mi pare, se ho capito bene, che qui siamo in un caso di quello che si chiama super condominio, cioè la signora dovrebbe, quelli che lei chiama i tre blocchi, dovrebbero essere in realtà tre condomini divisi, che tutti insieme potrebbero avere delle parti in comune, ad esempio la strada d'accesso che forma un super condominio. Quindi si tratta di capire se a lei basta l'ok dei suoi condomini, che lei avrebbe, o se deve coinvolgere anche i super condomini vicino. Avvocato Saporito, allora dobbiamo coinvolgere il super condominio? Dipende dall'equilibrio totale dei tre blocchi. Dove abita la signora Anna e probabilmente l'unità immobiliare è visibile da tutte le parti, cioè appena si entra in questo parco o comunque in questo insediamento. Se vi è un ritmo che viene alterato dal porticato che la signora vuole fare, in effetti si potrebbe dubitare della possibilità di una scelta autonoma di realizzazione. Se invece la visibilità di questo intervento è molto molto limitata e quindi non si altera, come in genere viene alterato da una facciata che immediatamente viene percepita come mossa invece che costante come era in precedenza. Dicevo, se l'intervento del porticato è percepibile, è una superfetazione, è qualcosa che come linee, come masse è un pugno nell'occhio, e allora occorrerebbe il consenso di tutti i componenti di tutti i tre blocchi. Diversamente, se si percepisce solamente da ridotte le visuali, può essere sufficiente l'autorizzazione del singolo blocco all'interno del supercondominio. Allora, intanto adesso dobbiamo andare in pausa, sentire suggerimenti per chi è in viaggio. Abbiamo certificato la mia totale ignoranza geografica in questa giornata partita stamattina da 9 in punto, con tutta una serie di confusioni su alcuni paesi tra Pisa e Livorno. Premolo abbiamo scoperto in provincia di Bergamo. Sentiamo un po' invece le strade italiane oggi cosa sta accadendo. Allora, intanto stavo leggendo i messaggi al 349-238-6666. Cristiano, c'è un ascoltatore che chiede qualche chiarimento sul tema della semplificazione per il permesso di costruire. Ribadire proprio i parametri per poterlo fare, i termini del silenzio assenso. Lui dice non è a 60 giorni per i comuni sotto i 15.000 abitanti. Non mi pare che noi abbiamo dato queste cifre prima, assolutamente. La soglia chiave è 100.000 abitanti per quanto riguarda il comune. Tenuto presente però che anche nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, se il responsabile del procedimento dichiara che il progetto è particolarmente complesso, deve motivarlo, non è che può dirlo così. No, senza... è complesso, ciao, arrivederci. Esatto. Ecco, se lui dichiara che il progetto è complesso, si rientra con gli stessi termini previsti per i comuni più grandi. Ecco. Allora, andiamo ad Anna Maria da Roma adesso invece, all'800 24 00 24. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere all'interno del nuovo piano casa, in relazione all'aumento di volumetria del 20%, quali sono i giorni di silenzio assenso in una città come Roma e quali sono le altre condizioni eventualmente da rispettare. Grazie Anna Maria, allora è stato lanciato questo nuovo piano casa per l'edilizia privata che confligge tanto con la vecchia versione, Cristiano? No, diciamo di no. Diciamo la dovrebbe che semplificare teoricamente. La dovrebbe semplificare. La differenza più importante è che prevede per tutti una possibilità di incremento del 10% anche per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, quindi uffici, laboratori, capannoni e così via. Questa era una possibilità che ad oggi non è consentita in tutte le regioni sulla base del vecchio piano casa. Poi per il resto dà a tutti un incremento volumetrico possibile del 20%. La vera differenza è che questa versione del piano casa, che scatterà diciamo tra 120 giorni se non entrano in vigore leggi regionali diverse, ha una formulazione tendenzialmente più ampia e più generale rispetto a quelle delle singole leggi e non consente, tra gli altri limiti, ad esempio, ai comuni di intervenire escludendo determinate porzioni del proprio territorio dalla possibilità di effettuare gli incrementi. Allora, andiamo. No, stavo intanto leggendo anche altri messaggi. C'è qualcuno che ce ne sta scrivendo tanti, ma credo che sbagli a comporre le lettere del suo messaggio, quindi non riesco a leggerlo appunto con chiarezza. Volevamo tornare magari un attimo anche con lei, avvocato Saporito, con un quesito di Mario da Sesto Fiorentino, perché ritorna un po' sul tema che abbiamo affrontato con l'ascoltatrice precedente, cioè il fatto di avere una villetta in capo o in coda ad una schiera. Questo ascoltatore ci chiede: i primi e gli ultimi di una schiera, non in condominio ma di oltre 1000 metri cubi, possono ampliare sul loro resede esclusivo? È un termine oppure è uno sbaglio? Ah, resede proprio esiste, si questo termine? Sì, ah, sì. Avvocato Saporito, che cos'è un resede? Ma, resede è un termine, diciamo, toscano, e sarebbe la zona di il giardino di Stretta Testimonianza. Questa mattina è da noi, stamattina che la Toscana mi mette in difficoltà in ogni modo. Va bene, quindi che cosa può fare questo ascoltatore? Indipendentemente dalla collocazione in testa o in testa o al centro di questo complesso condominiale, diciamo, schiera, cioè una affianca all'altra praticamente, e si può chiedere questo beneficio del piano casa. Ci sono dei limiti che però saranno previsti dalle singole regioni. Con riferimento a ciò che chiedeva la signora Anna Maria di Roma, sì, poco fa, i tempi del piano casa, cioè quando si può aumentare, dipende dal tipo di provvedimento che chiederanno le regioni. Se chiederanno la DIA potrebbe essere sostituita dalla SCIA e quindi andare in silenzio assenso dopo, iniziando subito e aspettando 30 giorni l'eventuale pentimento dell'amministrazione. Se invece è richiesto il permesso di costruire, come per esempio in Piemonte o per esempio in Lombardia, e i tempi sono quelli appunto propri del permesso di costruire, che degradano però con la nuova normativa adesso del maggio di quest'anno a silenzio assenso dopo, abbiamo detto, 90 giorni o 180 nei comuni. Quindi il suggerimento, avvocato, per Anna Maria da Roma è aspettare che disciplini la regione. Il Lazio potrebbe poter stabilire che cosa? Potrebbe stabilire come intervenire e soprattutto con che titolo. Se si può intervenire con DIA è tutto molto più semplice e rapido. Se chiede un permesso di costruire occorre aspettare i termini del permesso di costruire, cioè, ripeto, minimo 90 giorni nei comuni inferiori a 100.000 abitanti, con la speranza però di poter fruire di un silenzio assenso e cioè di poter scattare a iniziare il cantiere decorsi appunto questi 90 giorni. Cristiano, volevi intervenire? Sì, possiamo aggiungere così un'informazione che magari interessa anche ad altri ascoltatori, perché il Lazio è una delle regioni che hanno attualmente una disciplina sul piano casa, però è in corso ormai da parecchi mesi un processo di revisione di questa normativa regionale, che dovrebbe tradursi quindi nell'approvazione di una nuova legge e che dovrebbe prorogare di altri 3 anni il termine per la presentazione delle domande per fare i lavori. Adesso stiamo a vedere se la regione, anche alla luce di quanto contenuto nel decreto sviluppo, vorrà in qualche modo coordinare la propria norma che stava già riscrivendo con quelle nazionali. Diciamo che comunque ci sono questi 120 giorni, quindi questi 4 mesi, arriviamo di fatto a metà settembre, al termine dei quali il quadro dovrebbe essere, speriamo, un pochino più chiaro, perché si capirà se è entrata in vigore nel frattempo una nuova norma regionale o se e in che modo si potrà andare ad usare quella nazionale. Allora, tra l'altro stavamo proprio ragionando con Cristiano prima sulle flop del primo piano casa, se continuano a modificare le normative in continuazione, così come è stato fatto sulla casa negli ultimi anni, ma credo che sia una questione di sempre, Cristiano, certo che semplifichiamo ben poco. Però detto questo, adesso non vorremmo fare nessun tipo di polemica sterile, con questo che abbiamo ci dobbiamo adattare. Francesco ci scrive a salvadanaio@radio24.it: è possibile presentare la SCIA per ristrutturazioni che non prevedono un progetto edilizio in autonomia o deve essere redatta in ogni caso da un tecnico? Avvocato Saporito. Ma le ristrutturazioni nascono con un termine fortemente impegnativo, cioè alterazione dell'organismo esistente con tutta una serie di modifiche per generare qualcosa di diverso, che quindi sia difficilmente identificabile con quello che c'era prima. Quindi questo significa opere di un certo peso dal punto di vista edilizio, conseguenze sotto l'aspetto probabilmente dell'uso anche del cemento armato, delle degli standard di corretta costruzione. In parole povere, non è qualcosa di artigianale o di fai da te. Allora, io non riesco a rispondere a Gianluca dalla provincia di Brescia. Gianluca, se vuole, ci scriva a salvadanaio@radio24.it, le faremo dare una risposta al suo quesito. Lui voleva chiedere come mai, se vale per la DIA, il silenzio ha senso, bisogna comunicare inizio lavori e quali documenti servono. Forse voleva argomentare un po' meglio il tema. Intanto grazie a Cristiano Dell'Oste, grazie, del Sole 24 Ore, all'avvocato Guglielmo Saporito per essere stati con noi, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte oggi in assistenza tecnica. Noi ritorniamo domani. A tutti buona giornata.